Europa 24. Grazie a Simone Spezia, un saluto a tutti voi cari ascoltatori. Dunque, ieri nelle modalità europee, sempre tutto sommato non chiarissime nel primo impatto, è stata comunque una giornata di svolta. Infatti è passato un principio davvero innovativo, molto semplice in sostanza, che è quello che in una famiglia, chiamiamolo così per un momento, a 28, bene, i 28 condividono un problema, ce ne sono molti naturalmente, quello dell'immigrazione è solamente uno. Come avete sentito, esistono posizioni divergenti, anzi potremmo dire che ciascuno dei 28 ha la sua visione di questa storia. La Slovacchia in particolare ha detto no ed è pronta a fare ricorso contro questa decisione che vive come imposta, una posizione legittima ma che in queste ore ha un sapore vecchio, nel senso che rimane indietro rispetto a un cambiamento che l'Unione Europea ha finalmente deciso di assumere. Molte voci in queste ore, una tra tante quelle del commissario all'allargamento Johannes Hahn. Johannes Hahn è una figura importante all'interno anche, diciamo, dell'attualità, della storia recente dell'Unione Europea. Austriaco ha chiesto ai paesi dei Balcani di aprire le frontiere, di abbassare soprattutto i toni retorici. Hanna ha detto: invito i paesi dei Balcani occidentali a un comportamento responsabile nei confronti dei migranti e in particolare a non chiudere i valichi di frontiera. Ecco, l'Austria ha dato una certa visione di sé, accogliendo e cercando di organizzare la situazione. L'Unione Europea ha dunque raggiunto un accordo che sicuramente non è risolutivo di un problema così ampio, ma che appunto rappresenta un cambiamento probabilmente radicale e probabilmente irreversibile. Intanto, per la cronaca, la Commissione Europea ha lanciato 40 procedure di infrazione per diverse violazioni nella gestione dei flussi dei migranti. La notizia è di poco fa. Che cosa significa? Una grossa parte di questo dibattito tra sud e nord dell'Europa per settimane è stato in sostanza: condividete il fardello degli ingressi, che ovviamente arrivano in questa fase soprattutto dal sud, mentre il nord chiedeva al sud, all'Italia, alla Spagna, alla Grecia, di fare più controlli. Bene, l'effetto è dunque le procedure di infrazione, che è un monito in cui Bruxelles appunto chiede agli stati membri di allinearsi sulle modalità di controllo e registrazione di chi arriva. In realtà c'è una piccola sorpresa, perché tutto questo sembrava quasi fatto, tra virgolette, per l'Italia. Bene, invece l'Italia è uno dei 5 paesi membri che non ha ricevuto una comunicazione di procedura di infrazione. In sostanza sembrerebbe che l'Italia viene già considerata in linea con quelle che sono le nuove richieste. La richiesta è dunque: non viene più assunta tutta la responsabilità da parte del primo paese in cui il profugo, il migrante mette piede, ma quel paese ha comunque il dovere e il compito di registrarlo e di inserire tutti gli arrivi in quella che diventa una grande banca dati europea della migrazione. Questo naturalmente è il tema principale di questa giornata, ma non è l'unica. Allora ci occupiamo di qualcos'altro, dell'olio d'oliva e di una battaglia in vista. Infatti è una battaglia quelle che promettono il coordinatore del gruppo Socialisti e Democratici per l'Agricoltura all'Europarlamento Paolo De Castro e il presidente della Commissione Ambiente Giovanni La Via. Sotto accusa la proposta della Commissione Europea di concedere l'ingresso senza dazio ad altre 35.000 tonnellate di olio d'oliva tunisino, oltre le 57.000 già previste, misure che a loro dire potrebbero avere effetti disastrosi sull'ovicoltura italiana, ma che rientrano però in quel piano di sostegno all'economia tunisina volto a rafforzare la sicurezza del paese e a promuovere gli sforzi verso una transizione democratica. Allora sentiamo Paolo De Castro al microfono di Alessandra Schepisi. Noi comprendiamo le ragioni di un sostegno della Commissione nei confronti della Tunisia, un paese che ha bisogno di sostegni e che ha bisogno di essere aiutato, però questo è anche un anno molto difficile per i nostri produttori di olio d'oliva. Siamo stati colpiti dalla xylella e che ha creato grandi difficoltà nel sud della Puglia. Abbiamo difficoltà dal punto di vista di mercato. Ecco, in un anno così consentire alla Tunisia un contingente a dazio zero così importante credo che non sia stata una buona decisione. Quindi dobbiamo trovare un equilibrio. Il problema è non scaricare tutto sui produttori. Ci si sta riproponendo la stessa cosa del Vietnam. Il Vietnam è interessantissimo come accordo che sta facendo la Commissione produzione, però noi possiamo scaricare solo i produttori di riso, l'accordo col Vietnam, e analogamente con la Tunisia, gli accordi sono sacrosanti e dobbiamo farli, dobbiamo aiutare la Tunisia, però trovare un equilibrio, non può essere l'agricoltura sempre a pagare il costo di un accordo commerciale. Questo è un principio guida che ci ha sempre aiutato a trovare delle sintesi in tutti gli accordi che stiamo facendo, anche quelli più complessi e difficili, penso al TTIP, all'accordo con gli Stati Uniti, dove c'è un accordo molto più equilibrato. Qui si fa a colpo, si prende un settore e si scarica tutto su quel settore il costo dell'accordo. Non va bene per il riso nel Vietnam e assolutamente non va bene per l'olio lì in Tunisia. Insomma, staremo a vedere, la posizione è chiara: sostenere sì il sud del Mediterraneo, la Tunisia in particolare, che ne ha un grande bisogno, ma non mettere in ginocchio il mercato, in questo caso dell'olio d'oliva italiano e non solo. Bene, con questo è tutto per Europa 24, naturalmente ci risentiamo domani, un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.